ed in cambio tu cosa hai dato a me? Tutto quello che non basta a un amore come questo, ed in cambio tu cosa hai dato a me? Ore lunghe disperate, occhi tristi e mani vuote. Anche se l'amore vuol dire solo dare, anche se vuol dire morire mille volte, non è giusto che tu non abbia dato niente a me, niente di niente a me. Ed in cambio tu cosa hai dato a me? Tutto quello che non basta a un amore come questo. Anche se l'amore vuol dire solo dare, anche se vuol dire morire mille volte, non è giusto che tu non abbia dato niente a me, niente di niente a me. Ed in cambio tu cosa hai dato a me? Tutto quello che non basta a un amore come questo, all'amore mio per te.